avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en écoutant. Posso dirvi immediatamente come ho passato il fine settimana. L'ho passato studiando e questa mattina avrei bisogno che qualcuno mi aiutasse nella mia pericolosa e difficile ricerca. Sto analizzando cataloghi di ditte specializzate, soprattutto tedesche, perché in Italia non producono oggetti del genere, di spirali per la disotturazione. Ho un problema nel lavello a casa mia e sto cercando di capire se per me è preferibile usare, naturalmente con una lunga guaina che possa girare o elettricamente con una manovella, un raschiatore a catena con arpioni, una trivella lancia dentata, una trivella bulbo, una trivella a imbuto o altre attrezzi del genere utilissimi per sturarmi il lavello di casa. Perché? Perché ahimè, facendo la lavapiatti hanno usato un detersivo solido, non un detersivo liquido, sbagliando. Il detersivo solido, assieme al calcare che è molto presente nell'acqua romana, crea una sorta di intasamento e per quanto uno cerchi di disotturare il lavello usando prodotti adeguati, usando una periodica pulizia con liquidi adatti, si creano delle secrezioni, delle incrostazioni, per cui occorre adesso agire in maniera drastica con la trivella. Voi direte, ma come? Nicoletti, non ci dire se è un omino di casa. Sì, sono un omino di casa, ma non è una scoperta. Lo dissi e lo raccontai più di un anno fa facendo una metafisica trasmissione dedicata agli omini di casa. Noi pensammo di andare a toccare una punta indifferente del campione maschile nazionale, una sorta di mistici depravati dell'impresa domestica, della capacità di sostituire le donne anche negli impegni più legati alla manutenzione della casa, del bagno. Trovammo fantastici maniaci nella disincrostazione della vasca da bagno, nella pulizia delle bottiglie e via dicendo. No, invece l'Istat, che è un titolato importante istituto di indagini statistiche, in un'indagine che è stata celebrata giovedì da pagine e pagine sui giornali, ha definito che il re della casa, come titolo appunto l'inserto di Repubblica dedicato a questa inchiesta, è maschio. Un'indagine dell'Istat rivelerebbe che un terzo degli uomini in Italia oggi parteciperebbe al lavoro familiare. Negli ultimi 20 anni la presenza del maschio nell'attività di casa è cresciuta di 10 punti, soprattutto nelle famiglie dove le donne lavorano, sono occupate. L'Istat stima che quasi la metà degli uomini cucina, un terzo pulisce la casa e fa la spesa. La cosa che amano fare poco è stirare, ma questo già venne fuori dalla nostra inchiesta. Abbiamo contattato l'Istat naturalmente perché ci sarebbe piaciuto questa mattina avere con noi un ricercatore che ci aiutasse a entrare in merito ai numeri di questa loro indagine, ma evidentemente non ne vanno molto fieri perché non ci hanno nemmeno risposto. Beh, però questa mattina noi siamo forti dei dati della nostra precedente puntata di Melog e del vostro contributo. 800240024, facciamola vedere questa mattina come già noi da tempo sapevamo e quanto possiamo oggi confermare il fatto che il vero re che trionfa nel nostro paese del modello maschile è l'omino di casa. Mi occupo al 100% della cucina in casa mia e della relativa spesa. Per fare un esempio di quanto cucina male mia moglie o quanto non cucina, anche quando fai bastoncini Findus o le patatine fritte, le fai in forno. Io stiro da quando avevo 15 anni perché non soddisfatto di come si stirava a casa mia, allora mi fu detto o impari, se vuoi le camicie stirate te le impari a stirare. Non troverei maniera migliore per dare un preludio all'8 marzo, che domani si celebra in concomitanza con Martedì Grasso, già ci stiamo scervellando, di trovare una cabala, un punto di congiunzione, una sintesi efficace di queste due date che vadano a coincidere: il giorno della festa della donna e il giorno della festa della carne. Il Martedì Grasso è il giorno in cui naturalmente uno può dare libero sfogo ad ogni istinto, omnia licet, si può andare in giro anche vestiti da arcivescovo, si può fare quello che uno vuole, perché tutto è lecito il giorno del Martedì Grasso, però anche il giorno della festa della donna. Che fare? Noi intanto anticipiamo, dando gloria all'omino di casa, con Daniele. Buongiorno. Primo, omino di casa. Cioè, no, è caduto. Caduto Daniele, omino di casa è caduto. Beh, andiamo avanti con la nostra rassegna degli omini di casa. Ho dovuto, per lavoro, anche specializzarmi nel, non sapendo stirare molto bene, nel stendere bene le camicie. Io faccio le pulizie da quando ho 19 anni, da quando me ne sono andato di casa. Le pulizie di casa le ho sempre fatte, e stirare è stata una cosa che non mi è mai riuscita. Omino di casa e orgoglioso adesso. La mia, diciamo, specialità sono i vetri. Nessuno mi batte. È una cosa, mia moglie va a chiamare le vicine per farglieli vedere quando io li ho fatti. Signore, che domani scenderete in piazza, perché l'8 marzo, come vi siete già dimenticate che nemmeno due settimane fa avete fatto una fantastica manifestazione per rivendicare l'orgoglio di poter liberamente velare il proprio corpo, che è stato dissacrato, oltraggiato, travisato dalla cattiva televisione. Spero che non perderete l'occasione domani di ribadire questo vostro impegno. Beh, noi oggi cosa facciamo? Noi oggi, nella nostra modesta figura di omini di casa, celebriamo quelli che sono i nostri modesti rituali domestici, quello che noi siamo piacevolmente, non dico costretti, ma obbligati a fare quando ci troviamo da soli, quando non vogliamo pesare sulle vostre fragili manine, quando vogliamo dimostrare che siamo anche noi capaci di metterci insieme e gestire quelle banalissime, semplicissime, stupidissime, anche divertenti operazioni che hanno sempre rappresentato il cammino doloroso del vostro martirio di donne. 800240024. Vasca da bagno, come l'ho pulita io? No, penso che non l'ha pulita nessuno. Ho usato prima la pasta abrasiva e poi gli ho dato la cera. Niente, volevo intervenire nella trasmissione che si stava facendo sugli omini di casa, dicendo a quel signore che ha lavato la vasca da bagno con la pasta abrasiva che la vasca da bagno non è una macchina. Siccome lui l'ha considerata la macchina, poteva chiamare il carrozziere se la faceva pulita al carrozziere. Partiamo da alcuni dilemmi di tipo pratico. Come si pulisce la vasca da bagno? Questo signore la puliva con la pasta abrasiva, poi gli dava la cera come se fosse la carrozzeria di un'automobile. Qualcuno di voi ha dei rimedi migliori per pulire la vasca da bagno? Sì, giochiamo questa mattina. Riveliamoci i nostri piccoli e immodesti segreti domestici. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha qualche consiglio da darmi? Ecco, sì, il consiglio è sul tema che è stato lanciato all'inizio, quello dei danni che fanno i detersivi solidi nella nostra vita. Eh sì, è vero, è un problema, sì. Ecco, che sono una cosa pazzesca. Guarda, io i piatti, se posso, li lavo a mano, che vengono meglio usando il detersivo liquido a mano, però sa, ogni tanto quando ho tanti ospiti devo usare, certo, la lavapiatti. No, ecco, volevo raccontarvi la mia esperienza personale, perché siccome in Inghilterra non esiste la figura dell'idraulico che va a casa a rimediare a queste cose, infatti vedo signore molto tristi, sì. Su internet ci sono un sacco di siti inglesi che danno consigli su questi argomenti. E io, inserendo il nome della mia lavastoviglie, ho trovato una procedura. Ce la racconti velocemente, perché sì, ci interessa. Ecco, una procedura che bisognava seguire proprio in questo caso, in cui la lavastoviglie veniva otturata dalle pastiglie di detersivo solido. E cosa si fa? Si apre uno sportellino, si entra, si tira fuori. Ah beh, quello è lo spurgo sotto, ma sì, è poca roba. No, ma è una cosa molto più complessa, che la casa della lavastoviglie mi aveva chiesto una cifra iperbolica per venire a fare questo lavoro, e io con 0 euro sono riuscito, con l'aiuto poi di un'amica. Sì, ma guardi che pulire il pozzetto di spurgo No, ma non è il pozzetto, bisognava entrare da un'altra parte che è assolutamente conosciuta solo misteriosa. Ah beh, vedi, c'è un segreto nella lavastoviglie, non lo sapevo. In questa maniera viene fuori una massa informe di colla e di cose, e la lavastoviglie ricomincia a scaricare. Sì, il mio problema è, diciamo, è a valle, nel senso che dopo, quando fuori dalla scatola sifonata in cui scarica appunto la lavastoviglie, parte un tubo che è molto lungo, passa sotto il pavimento della cucina, lì si crea il tappo. Quindi occorre una sonda di almeno 5 metri. Quindi è un po' più complicata. Però andiamo avanti. Salvatore. Salve, buongiorno. Eccoci qua. Buona mattinata. Ci dia dei consigli a noi omini di casa, apprendisti o semiprofessionisti? Ecco, consigli forse è una parola grossa. Io mi vanto, tra virgolette, nonostante che il mio lavoro mi impegni dalle 12 alle 14 ore al giorno, io come lavoro faccio un investigatore privato, torno a casa, non mi vergogno di dire che la cucina la lavo io, piatti e tutto il resto lavo io, perché sono pignolo, premetto. Lava a mano i piatti, naturalmente. Ecco, questo volevo dire, lavo a mano perché ci tengo, cioè sono più tranquillo nell'igiene. Ma diciamola tutta, Salvatore, che ci siamo fatti a fare il doppio lavello, se non per lavare i piatti. Ma è una cosa meravigliosa, è un passatempo, avere anche la televisione dietro che ti fa compagnia, lavare i piatti. E le dico una raffinatezza, io lavo senza guanti, perché è bello sentire l'unto sotto i polpastrelle. È quella la dimostrazione del bello lavoro che ti ha fatto, quella è la cosa bella, quindi secondo me non c'è nulla a vergognarsi. Se non si sente, se senti il dito stridere sul piatto pulito quando c'è il detersivo al limone che l'ha ben sgrassato. È un riflesso, quello che sta dicendo, sta parlando allo specchio in questo momento. I piatti si lavano a mano e a mani nude, senza guanti. È a mani nude, senza guanti. Premetto anche che sono un bravo stiratore, perché ho perso i miei genitori molti anni fa, quindi per forza di cose ho dovuto imparare con urgenza. Sono pignolo, non me ne è un vanto. Quanto impiega a stirare una camicia? Una camicia, provato con l'orologio, dai 7 ai 9 minuti. Diciamo che non è un granché, però è una buona media, diciamo che per un uomo è una buona media. Sono pignolo. Le stira piegate, o le stira appese? Da qui si vede la differenza. No, io le stiro sul cavalletto, angolo per angolo, bottone per bottone. No, ma dico, poi le ripone piegate o ripone con la stampella, come fanno quelle donne che hanno fretta? Sulla stampella. Guardi, la vera camicia stirata è ad essere piegata. Se lei deve partire, andare in viaggio, come se la porta con la stampella? Guardi, è una parziale stiratura, lei ci sta prendendo in giro, mi spiace Corrado. Corrado, buongiorno. Buongiorno, era Salvatore. Sì, Corrado, è lei. Lei cosa buongiorno. Sa fare di bello? Io ho colto la sua idea del sentire il piatto pulito che scricchiola sotto le dita, certo. E sentire il grasso a mani nude, aggiungo che... Io penso che i guanti di gomma, quelli per lavare i piatti, li usino soltanto le donne, non ho mai visto uno usarli. Mai. Certo, e poi a mani nude si deve raccogliere tutta la schifezza. Certo, se no si ottura il tubo e poi mi serve la trivella motore, chiaro. E assolutamente per sgorgare il classico stura lavandino, quello di... A ventosa. Quello di nonna, esatto, con tutto quello che viene fuori, che poi lì insomma un po' di pelo sullo stomaco. Io devo dire che il momento più bello è quando si passa lo sgrassatore poi sul lavello, che tutto torna pulito. Sì, quello è il momento migliore, è la rifinitura ideale. Quando l'acqua poi viene assorbita quasi con ingordigia dal tubo di scarico, c'è un piacere proprio che ti pervade, perché hai fatto un lavoro oltre ai piatti puliti. Devo dire che ultimamente, a causa del lavoro, chiaramente, che poi ci dai soldi per vivere, la lavastoviglie è presente, ma anche quella è curata assolutamente in maniera maniacale, cioè è una proprietà privata, guai a chi si avvicina. La lavastoviglie è mia, la carico io, e se per caso la carica mia moglie... Subito le scarrellano le donne, vado vero? A mettere a posto, fanno uscire il carrello dalle rotelline, che è una cosa molto delicata, vero? Vedi? Non si capisce perché i piattini delle tazzine non vengono messi dove vanno i piattini. C'è il posto fatto apposta. Poi bisogna studiare naturalmente la topografia interna della lavapiatti, è un manuale, va studiato. Assolutamente, è un capolavoro di ingegneria, è fatto apposta, c'è il posto per i piattini, per le tazzine. Assolutamente. Senta, le posate come le mette? A lama in su o a lama in giù? Le posate, dopo aver rischiato il dissanguamento, qualche volta le metto alla lama in giù, alla lama in giù, se sono con la punta, vengono vanno male. Nei buchetti, quindi bisogna fare attenzione, ma devono essere messe alla lama in su, assolutamente. Perfetto, 800240024, vedete, tirate fuori senza pudore l'omino di casa che è in voi, vedrete, vi sentirete meglio e soprattutto domani potrete andare per strada a testa alta, nessuno potrà dirvi maschio, vessatore, e... naturalmente voi potrete esibire la vostra patentina da omino di casa che assegnerà questa mattina Meloc. Come si stira una camicia? Innanzitutto si slacciano i bottoni del colletto e si stende il colletto per bene sull'asse. Se volete potete usare un po' di appretto, quindi col colletto ben steso si esercita tanta pressione in modo da farlo diventare ben liscio senza alcuna piega. Perfetto, una volta fatto il colletto iniziamo con le spalle, quindi mettiamo l'asse all'interno della prima spalla. Monica, buongiorno. Buongiorno. Ho finalmente una signora che rende omaggio a noi omini di casa. Ma infatti ho chiesto se era permesso entrare, perché in queste vostre disquisizioni di questa mattina vi trovo leggermente patetici. Scusi signora, ma ci dica, dice con tutto il rispetto, la delicatezza, ma cosa piffero volete da noi? Scusate, questa mattina vi stiamo mostrando la nostra capacità di avere la massima eguaglianza, il massimo disprezzo di ogni disparità di funzioni, discriminando il ruolo dal genere e la sessualità. Noi facciamo gli uomini di casa e siamo patetici. Guardi, veramente io non vi voglio uguale a noi, vi voglio uomini, ma non assolutamente grazie per l'aiuto che ci state dando, ma poi quando si sconfina nel puntiglioso, io non riesco a capire bene se lei usa solamente il tono ironico, mi sembra anche leggermente sarcastico, e come è riuscito... Ha avuto un attimo di paura pensando che realmente mi occupassi di queste cose, ma lo faccio veramente. No, no, ma si capisce, perché in alcuni sconsigli, addirittura in alcune puntigliosità si capisce, però sembra quasi appunto una... E lo trova disonorevole, disdicevole, poco romantico, poco attizzante che un uomo sappia fare queste cose? Credo che quando un uomo arrivi a tanto, anche nella spiegazione di come si stira una camicia, credo che poi, mi dispiace, ma non riesce poi più a cogliere qual è magari il contatto con la mia pelle, che magari potrebbe essere... Beh, io di questo non sarei tanto sicura, signora, perché stirando una camicia si possono fare tante cose, perché impegna soltanto le mani, sa. Se ci fossero persone disponibili a collaborare in quel momento saremmo disposti a tutto. Poi voglio dirle, vede qual è il paradosso? Io feci una trasmissione tempo fa e fui molto denigrato, fui addirittura invitato al suicidio e cose del genere, in cui esprimevo il mio modello di femmina ideale, che era la donna i cui fianchi potevano essere cinti da tre palmi. Ah. E questo veniva considerato un atto di bieco maschilismo, in cui dicevo che il top per me era entrare a casa, avere una persona pronta che mi mettesse le pantofole, mi preparasse qualcosa di caldo e si occupasse di me. E oggi mostro quest'altro lato dell'uomo meno di casa e subito le donne rivendicano il nostro dovere di essere sempre maschi presenti. Datevi una regolata, perché io sono qui a sapere quali sono i vostri desideri, pronti per quanto possiamo a soddisfarli. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un minuto dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Meloc 2.0. Per lavare i piatti e le stoviglie che avete sporcato sia nel cucinare sia nel mangiare, occorre dell'acqua corrente, si trova in tutte le cucine. Abbiamo nelle cucine un dispositivo che si chiama, detto genericamente, lavandino, che comprende un paio di rubinetti, quello a destra solitamente corrisponde all'acqua fredda e quello a sinistra all'acqua calda, e un dispositivo centrale di getto dell'acqua. Girando in senso antiorario i rubinetti, fuoriuscirà dell'acqua. La dimostrazione è ora facile. Una lettura perfida e superficiale direbbe che c'è una punta di maniacalità in questo omino di casa che su YouTube è così cortese a darci istruzioni dettagliate di come si lavino i piatti. No, è semplicemente preciso, semplicemente ricostruisce una situazione che lui ipotizza che parta dal punto zero della conoscenza dei lavori domestici, quindi spiega che quelle due cavità che si trovano in quel luogo in cui un uomo raramente mette piede, che si chiama cucina, sono il lavello per lavare i piatti, spiega. spiega, naturalmente dato le difficoltà di intuire soprattutto nei modelli architettonicamente più avanzati di rubinetti, quale sia quello dell'acqua calda e quello dell'acqua fredda, spiega che uno sta a sinistra e l'altro sta a destra. 800240024, questa mattina stiamo nuovamente dando giustizia all'omino di casa, dato che una ricerca dell'Istat ha dimostrato che ormai questa specie maschile, che doveva vivere con profondo senso di sconcerto e vergogna la sua diversità, tenendosi nascosta, occultando quelle che erano le loro predilezioni, le loro capacità e tutto, finalmente può venire alla luce del sole. Questa mattina è il giorno del glorioso coming out degli omini di casa. Quindi l'omino di casa Pride cade naturalmente il 7 marzo, il giorno prima della festa della donna, così stiamo tutti sereni e tranquilli. Luca, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Allora, io avevo, intanto la prima cosa che volevo dire era una risposta al problema dell'ingorgo al suo lavandino, non so, alla sua cucina. Sì. Che è la pistola d'aria compressa. Ma non basta, perché sono 5 metri di condotta e quindi per quanto sia... Ma io ho avuto lo stesso problema, nel senso, si era bloccato tutto, non scendeva il lavandino della cucina e ho provato con agenti chimici... No, ma io sto comprando un'attrezzatura tedesca bellissima, elettronica, che è una specie di sonda elettronica, c'è anche la telecamera che prima osserva qual è l'intasamento nel tubo, costa un po', ma una volta che la compro non ho più problemi. E poi parte questa... Ho provato anche con la sonda, quella manovella, diciamo, manuale. No, quella non serve a nulla, quella è per cose piccole, ci vuole una cosa elettronica con la testina al vanadio che porti via anche le incrostazioni di calcare dal tubo, è una cosa complessa. E non arriva, però per dirle quant'era lontana la mia intasatura, io la prima volta che ho fatto funzionare la pistola, quella d'aria compressa, sì, addirittura si è bloccato tutto il piano, nel senso, si è bloccato anche il lavandino del bagno. Quindi evidentemente il blocco si era mosso ed era andato sull'intersezione di tutto il piano. E lei, perché e lei si vede che ha una seconda scatola sifonata in cui vanno anche gli scarichi delle acque chiare del bagno, naturalmente ha fatto un casino, deve stare attento quando mette le mani. Ma andiamo al punto, che l'idraulica è una delle tante mansioni dell'omino di casa, non è la più importante. Vabbè, il punto è che con questa pistola alla fine si è sbloccato. Comunque, l'altra cosa che volevo dire è questa. Allora, ci sono delle cose che non capisco perché, ma le donne non riescono proprio a fare. Diciamone qualcuna. Allora, la prima cosa è, quando puliscono la macchina del gas, certo, diciamo, la copertura dei fornelli a gas non è mai precisa, quindi quando uno va a riaccendere dopo il gas non esce mai. Bisogna farli coincidere bene, certo. Vanno smontati, trovare il punto, c'è una piccola tacchetta con un pernino che fa coincidere, diciamo, i vari pezzi del fornello, un po' difficile farlo, ma bisogna farlo. Certo, e per qualche motivo, ma questo deve essere genetico, sia che sia la donna delle pulizie, che sia la moglie, che sia la suocera, la madre, la sorella, la zia. Esattamente, non lasciano, mai. Lasciano il bagnatino dentro e non si accende il fuoco. Esattamente, no, ma poi è decentrato, quindi sempre così. E l'altra cosa invece, anche questa è un po' fastidiosa, è che quando stirano le camicie, sai, le camicie quelle che hanno il bottoncino sul collo. Sì, quelle di Veltroni, sì. Esattamente, per tenere il collo. Allora, il bottoncino del collo viene... tipicamente attaccato sul bottone invece centrale della camicia. Ah, si viene il collo asimmetrico, sì, è un errore. Esattamente, quindi uno si infila questa camicia e si sente tutto e un si autostrangola, poi... sì, è il bel sai. Esattamente, quindi questa era una... Però diciamo, i radical raffinati dicono che i bottoncini andrebbero tenuti sbottonati, quindi inutile attaccarli, andrebbero tenuti sbottonati. Come vabbè, i fighettoni che tengono i bottoni della giacca, dei polsini sbottonati, per far vedere che hanno una giacca sartoriale. Grazie Luca, Sandro. Salve, sì. Io volevo solo dire che per me il massimo della soddisfazione è pulire le fughe tra le piastrelle della doccia. Della doccia? Sì. Mm. E con cosa le pulisce? Con una di quelle spazzole che strigliano. Quelle cose. Tutto manualmente, sì, naturalmente, perché è più fatica e viene anche meglio. Appunto, e che prodotti, esatto, usa per pulire le fughe? Dei detersivi. Ma c'è il detersivo da fuga fatto apposta? Beh, ovviamente no. E praticamente questo è il suo passatempo preferito, diciamolo. Beh, no, preferito no, perché comunque si deposita in tempi abbastanza lunghi, quindi lo fa. Ma dipende, gli uomini hanno la pelle grassa, dicono le donne, quindi più si lavano se la doccia è molto usata da maschi, la fuga si annerisce prima, e se invece è usata da donne ci mette più tempo. Va bene, grazie, grazie Sandro. Massimiliano. Sì, buongiorno. Qual è la sua passione, Nicoletti, domino di casa? Lucidarmi le scarpe. Beh, se no chi gliele lucida, scusi. No, perché quando abitavo con i miei, all'inizio... Ci pensava la mamma. No, beh, ma ne avevo poche. Quando ne avevo poche ci pensava la mamma. Poi man mano mi sono perfezionato, ho chiesto dei consigli a un calzolaio da cui mi rivolgevo per le riparazioni. Le pulisce a caldo o a freddo? No, a freddo. Però appunto adesso ho talmente tante scarpe che solo io lo posso fare, non posso... come dire, incomodare, che ne so, la donna delle pulizie, perché abito da solo. Quindi, tra l'altro, mia mamma, pensi che adesso è diventata mia, come dire, mia allieva, perché adesso sono io che do i consigli a mia mamma riguardo a fare i corsi di pulizia. Beh, ci dica un segreto, uno dei tanti. Ma guardi, semplicemente io innanzitutto passare il lucido anche sotto la suola. Beh, scusi, poi dopo si spezza l'osso del collo, come fa? No, passarlo sotto la suola. Ma dopo scivola. No, vabbè, è chiaro che poi uno cammina, il lucido poi si... Allucida anche le suole, beh, questa è una raffinatezza. Lucido la suola perché mantiene elastica, nutre anche la suola, perché anche la suola è fatta di sulle scarpe ovviamente di cuoio, certo, che hanno anche la suola di cuoio, nutre e mantiene elastica anche la suola. Quindi lei, no? Non pago di lucidare tutte le scarpe a mano, lucida anche le suole, così vengono bene. Lucido anche la suola e poi periodicamente, diciamo, tra una lucidata ogni tre lucidate li passo, ammetto di essere un po' pignolo. Sì, beh no, lievemente. E gli passo anche il grasso, perché comunque il grasso diciamo che gli dà le impermeabilizza. Sembrano, ecco, sorridere le scarpe quando le ingrassa. Sì, guardi, io su delle scarpe che indosso da 10 anni sembra che le ho comprate ieri, la gente addirittura anche il calzaturificio, ecco, di solito dove mi reco a comprare le scarpe rimangono sbalorditi. Non credo ai loro occhi, ma questo fa piacere molto. Roberto, invece, Roberto, buongiorno. Roberto? Buongiorno, sono qua. Allora, volevo tornare un attimo sulla lavastoviglie. Eh sì, è un problema, mi dica. Allora, se posso aiutare. Le lavastoviglie si mettono i piatti lavati. Certo, prelavati a mano, senza prima, guanti. Certo. Se no, cosa serve? E poi vorrei tornare sulle posate. Sulle posate. Allora, c'è una nota marca tedesca, sì, che ha un carica posate in alto, penso che lei l'abbia presente. Certo, naturalmente. Quando uno arriva lì, basta, torna. A me capita, quando vado in montagna, che c'è una lavastoviglie col cestello sotto, è terribile. Lo so. Con quella tedesca non ci si tagliano le mani. Diciamo che costa un pochino di più, però vale la pena, che uno carica le posate l'alto, certo. È anche bello quando... Dicevo, è anche bello quando uno l'apre dopo il lavaggio, vede subito tutti quei bei coltelli lucidi, i cucchiai lucidi. È una gioia per l'occhio. Lo so, questi pochi capiscono questi particolari. Grazie. Anna Rita, buongiorno. Buongiorno, senta, grazie. Cioè, io sono 15 minuti che mi diverto da morire. Rido come felici. Una matta, perché questi uomini sono divertenti da morire. Appartengo anch'io, io ve lo ringraziare, ecco, tutto qua. Veramente grazie per la simpatia. Ma lei è d'accordo con quello che diceva la sua collega poco fa, che un uomo del genere poi è totalmente disattivato dal punto di vista dell'erotismo, della mascolinità? Ma io, guardi, mi astengo al riguardo, sono pianeti separati, ecco, dai, non voglio essere così cattiva. No, no, ma dica, guardi, è il giorno dell'orgoglio dell'omino di casa oggi. L'omino di casa magari poi è comunque un delizioso compagno. Guardi, dopo che abbiamo lavato i piatti a mano, mettiamo la cremina sulle mani, non si vede nulla. Mi sembra un'ottima idea. Perfetto. La ringrazio tantissimo. Va bene, Elisabetta. Elisabetta. Io invece, diciamo, come donna non trovo né patetico né divertente, cioè nel senso, io apprezzo moltissimo così la sottile ironia della trattazione che state facendo. Ma guarda, io sono serio, non sono ironico. Mm, Beh, c'è una sottile ironia, diciamo, nell'espositiva più che altro. Esponiamo la nostra diversità oggi, l'abbiamo sempre tenuta nascosta, con vergogna, oggi comunque, lo diciamo. Comunque, dalle vostre testimonianze si evince un'esperienza effettiva degli interpellati e anche un effettivo cambio di mentalità che auspico. Io personalmente... Signora, guardi, glielo dico Elisabetta, avendo vissuto da solo parecchi anni, avendo una moglie che svolge la mia stessa professione, con la differenza che lei chiude il suo giornale verso le 10:30 di sera, in questi ultimi anni, avendo anche aiutato mia moglie ad allevare 2 figli, un po' di esperienza uno se la fa, ma non me ne vergogno. A casa mia... Assolutamente, io sto apprezzando questo perché sono nelle stesse, diciamo, mi scusi se l'ho interrotta, sì, sono nelle stesse condizioni, cioè io ho un marito, ho una professione che mi ha sempre, diciamo, impegnato molto, e un marito che, a parte che è anche lui uno specialista della lavastoviglie, prima lì sì che ho fatto 2 risate, ho detto a Cipica, allora non c'è solo mio marito che ritiene off limits per me la lavastoviglie e tutto quello che, perché effettivamente noi ci aiutiamo, siamo sempre stati. C'è la differenza, signora, entrambi. Noi uomini questa cosa non è che ci moriamo dalla gioia per farla, è un peso, ma se dobbiamo farla la facciamo bene e non lasciamo tracce, non vogliamo che rimanga nessuna traccia di questo vergognoso momento che ci costringe a fare delle cose che sono contrarie alla nostra natura. Lo facciamo perché ci adattiamo, ma dobbiamo farlo bene, non deve rimanere nessuna traccia. Quindi se uno fa la lavatrice deve farla in modo che una volta finita non esista nell'ambiente olfattivo, nell'ambiente sensoriale della casa, nessuna traccia del piatto lavato. Grazie Elisabetta, tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Non c'è molto tempo, va spiegato come si prepara il caffè. Ci occorre acqua. Abbiamo già parlato dell'acqua in un'altra puntata. Polvere di caffè, cioè caffè macinato, e diciamo un dispositivo che serva a combinare l'acqua stessa con le proprietà aromatiche e proteiche e chimiche del caffè. Il caffè si ottiene... Ecco, c'è, diciamo, ancora qualche piccolo limite. Questi uomini di casa, quando devono raccontare la loro opera quotidiana, sono un po' meticolosi, un po' lentini, un po' fanno allattare le ginocchia. Per spiegare come si fa il caffè, questa persona ci mette un po' di tempo. Ieri mi sono visto un fantastico video di un omino di casa che viveva in Giappone e spiegava al mondo come ci si fa il bagno in Giappone. Ora, per farsi il bagno in Giappone bisogna prima lavarsi, poi pulire la vasca e poi farsi il bagno con l'acqua pulita. È un video su YouTube che dura 45 minuti, ma dopo 45 minuti finalmente sono i piedi nudi dell'omino di casa giapponese dentro la vasca, tutto felice che è arrivato all'apoteosi della sua operazione. Vi leggo qualche commento su Facebook. C'è un po' di perplessità da parte delle signore, però in effetti non è da tutti i giorni vedere un così vasto coming out di omini di casa che dichiarano la loro impellente necessità di darsi da fare in casa. Emanuele mi dice: siamo nel panico perché mi si è rotto il ferro da stiro, devo stirare un vestito alla mia futura moglie che non sa stirare, e soprattutto in casa ho un disordine che non ce la faccio nemmeno a capire dove iniziare. Laverò per terra e dopo darò l'aspirapolvere, o il contrario. Iris dice: che bello vedere tanti uomini dediti alle faccende di casa. Andrea dice: ormai siamo ghettizzati, gli schiavi del XXI secolo, gli uomini di casa chiedono le quote azzurre per avere accesso alle mansioni e ai mestieri extra casalinghi. È giusto. Poi ecco il più bel messaggio, me lo fa Cristina, che dice: a me l'omino di casa attizza, non perché pregusti la possibilità di schiavizzarlo, ma perché mi dà certezza di avere a che fare con un essere dotato di intelligenza e intraprendenza, e non con un bimbo da accudire. Questa è la realtà. L'omino di casa è autosufficiente, non ha bisogno di nulla, è totalmente dedito al vostro piacere e alla vostra gratificazione, perché ha già fatto tutto quello che deve fare, non occorre che voi lo facciate. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Io niente, sono stato sposato 2 volte, ora sono felicemente single da qualche anno, ho sempre fatto tutto in casa, lavo, stiro, cucino, pulisco. Non ho la pignoleria tipica che sento di tutti gli uomini, nel senso che avendo da fare tanto non sono maniacale. Una cosa che credo di essere originale, guardo le previsioni del tempo prima di fare la lavatrice. E quindi io la sera consulto il meteo regionale, vedo se c'è il sole e prima di andare a lavorare stendo i panni. Ma se piove, a Roma ha piovuto per 4-5 giorni di seguito, cosa fa? Si rigira le mutande prima di No, no, essendo solo e non avendo 12 figli, tecnica. Avendo insomma, più di 10 paia di mutande, più di 10 camicie, ce la faccio a resistere. Ah sì, al massimo. Poi deve fare 2-3 lavatrici nello stesso giorno, stendere tutto assieme. Sì, sì, sì, però non sopporto le asciugatrici e quindi mi piace stendere al sole. Va bene. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Omino di casa, sì, Omino di casa. Sì, buongiorno. Volevo non lo dica, sono un orgoglioso di essere un omino di casa. Certamente. Ecco, benissimo. Volevo dare un consiglio alle signore per quanto riguarda l'uso della lavatrice. La lavatrice, come fa anche mia moglie, tende a usare, fare 2-3 lavaggi consecutivi. È l'errore più grave che si fa per la lavatrice, perché non sono lavatrici industriali quelle che abbiamo noi in casa. La mia sì, però, se permette è una lavatrice che è garantita, che può fare anche 15 lavaggi al giorno. È indifferentemente. Sì, bisogna fare. No, costa no, molto. Bisogna fare la pausa di 20 minuti perché i motori si surriscaldano e chi usa la lavatrice cercando di fare la pausa possibilmente nei limiti del tempo. Beh, il tempo di vuotarla e di ricaricarla sono 20 minuti. Però le assicuro, guarda, esistono modelli abbastanza costosi che sono lavatrici industriali da casa, glielo assicuro. Elisa. Pronto? Sì, eccomi. Buongiorno. Allora, io volevo rispondere a quel signore che si lamentava che le donne, sia cameriere, sia mogli, suocere, eccetera, non rimettono a posto gli ugelli, diciamo il sopra degli ugelli. Un po' è vero, guardi, un pochino è vero. È vero, ma vede che c'è, che noi, soprattutto con queste cucine di acciaio, questo lavoro lo facciamo non so quante volte al giorno. Quindi non siamo lì pignoletti, perché probabilmente lui e gli altri... A vedere se l'ugello va nel posto giusto, certo. Insomma, per noi poi quando accendiamo li mettiamo subito tutto a posto, non è che siamo lì tutte le volte, e questo rientra proprio in quello che hanno detto altri, che il fatto che chi fa le cose una tantum sarà anche più pignolo, chi le fa sempre non so quante volte al giorno poi diventa un po' più approssimativo. Ecco, abbiamo il telefono adesso, però l'apoteosi dell'omino di casa, che è già stato ospite della nostra precedente trasmissione, Fiorenzo Bresciani, che è presidente dell'associazione Uomini Casalinghi. Avete avuto in questi giorni la vostra gloria, la nostra gloria, vero Fiorenzo Bresciani? Sì, certamente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo appena finito il congresso a Sanremo e è stato un gran successo. Quanti eravate? Tantissimi, mi so dire da contare, ma eravamo tanti, perché la nostra associazione conta oltre 5.600 iscritti. E la sera tutti a cucinare assieme, naturalmente? Ma sì, insomma, tutti a cucinare insieme, no, abbiamo fatto 2 giorni di festa in quel momento lì, eravamo, come si può dire, ospiti e a festeggiare il nostro raduno. Quindi finalmente l'omino di casa è uscito dal suo ghetto, dalla sua emarginazione, dalla vergogna dell'oscurità, della propria diversità e può finalmente dire sono un omino di casa. Ma certamente i tempi sono cambiati, l'uomo ha capito l'importanza della collaborazione e della gestione della casa e perciò è chiaro che stanno cambiando i tempi, stiamo maturando, devo dire fortunatamente. Senta, ma come ci si difende da questa cultura del sospetto? Ho sentito molte signore chiamano, dicendo sì, ma voi omini di casa, poi ci spoetizzate, ci disamorate. Ma ci sono varie tipologie di donne che non piace molto l'uomo casalingo, perciò loro credono a questa cosa oppure non ci vogliono credere. Sembra impossibile che sia vero, è una grande realtà. Sentiamo Maurizio, per chiudere con lei, velocemente. Eccoci qua, allora io vorrei sottolineare l'importanza di questa creatura misteriosa che è il malloppetto lanoso, che è quella cosa che si forma misteriosamente di giorno in giorno e che l'aspirapolvere, con perizia tecnica ma anche con la fantasia di chi lo guida, scova e in qualche modo annienta. Quindi lei è un ricercatore di malloppetti lanosi sotto i divani, sotto le sedie, e li porta via. C'è modo modo e modo, c'è modo e modo ovviamente. Ma lei può vedere dentro il sacchetto una volta che è pieno per analizzare cosa conteneva il suo pavimento di zozzeria? Sì, sì, assolutamente, arrivo a una vera e propria... Nessuna donna lo fa di andare a guardare dentro il sacchetto dell'aspirapolvere, ma l'omino di casa sì, perché l'omino di casa è un esperto, l'omino di casa è un poeta, l'omino di casa è il vero artista della manutenzione. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, anche loro omini di casa. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.